a poco un'immensità. Hai voluto tutto e troppo in fretta, hai voluto l'aurora, ma ora sai che il desiderio in un istante è un'immensità. Si è rivelata per potertene andare via, costa quel che costa naufragare nell'immensità. Tanto io con te non l'ho capito, l'ho capito da solo. Let's go.